Sono le ore 18:02 di sabato 2 marzo 2024. Sono reduce intanto da una visita alla Galleria Nazionale, dove in realtà sono andato non tanto per le collezioni, che insomma sono sempre bellissime, specialmente nel nuovo allestimento della direzione di Daniela Collu, ma stavolta ero andato perché c'è questa mostra che si intitola Grab the City, che detto così sembra un invito in inglese, ma naturalmente gioca sul gioco di parole, sul calambur della parola grab, che vuol dire prendi, ma è anche l'acronimo grab, che è il nome che è stato dato a un progetto nato davvero dal basso, cioè nato dalle persone che nel tempo si sono organizzate per dare un senso a tutti i percorsi ciclabili che stavano nascendo soprattutto a est del centro storico, fino a disegnare appunto un grab, cioè un grande raccordo anulare per le biciclette, che di fatto potrei dire tra tratti sterrati, tratti inventati, per certi versi già esiste, cioè qualcuno potrebbe, anche io devo dire che un bel pezzo del grab l'ho già percorso, se non l'ho fatto tutto semplicemente perché fisicamente non ho i mezzi, sono 30 km, anche a volte disagevoli, proprio perché non è un percorso come dovrebbe essere in futuro attrezzato, però insomma già ora esiste, no? Questo è tipico dei romani, che quando una cosa non c'è se la inventano a partire dai parcheggi, no? Cioè un parcheggio a Roma diventa tale dopo che una macchina si è fermata in un luogo, infatti poi gli altri seguono l'esempio e si crea la percezione visiva di un parcheggio reale, e lo stesso succede con i percorsi ciclabili. Poi bisogna dire che una di quelle cose, la pista ciclabile che abbiamo cominciato a guardare con altri occhi durante la pandemia, quando per esempio la città senza auto per un certo periodo, comunque con un numero di auto tollerabile, ha smesso di essere il simbolo di una crisi, no? Vi ricordate che negli anni 80 a Roma è stato il momento in cui è stato più difficile circolare, per tutta una serie di circostanze, non ultimi i lavori per il Mondiale di Calcio del 90 naturalmente, però io ricordo che in questa opulenza doveva essere celebrata andando sempre in macchina ovunque, e questo creava degli ingorghi assolutamente folli. E poi la situazione si è quasi stabilizzata, e devo dire che dopo la pandemia, sì, il traffico è tornato, ci sono ancora momenti difficili, però è diventato in qualche modo tollerabile. Cioè guardiamo la città non più come il simbolo della sua crisi, ma come un luogo in qualche modo da reinventare, no? È un'altra delle cose che abbiamo imparato dopo la pandemia. Guardiamo non più gli spazi vuoti come spazi perdenti, ma come spazi a cui dare un senso. E naturalmente il fatto che tante persone abbiano cominciato a sfruttare anche queste piste ciclabili provvisorie, deprecabili, rotte, pericolose, quello che ti pare, però comunque qualcosa sicuramente ha cambiato nel rapporto con la città, fino addirittura oggi a permetterci di immaginare addirittura un grande raccordo anulare da percorrere in bicicletta. Tra l'altro, lasciatemi dire, un raccordo anulare che si inserisce, e qui la mostra lo spiega molto bene, nell'idea progressiva, no? di immaginare sempre la città come il suo limite e quindi i suoi anelli, no? Dalle mura aureliane al primo tentativo di anello ferroviario, su cui magari poi mi spenderò in un altro pendolino perché lo merita, il secondo anello ferroviario, quello che si sta cercando disperatamente di completare oggi, che è però fermo a Vigna Clara, e poi il sistema delle tangenziali, e infine il grande raccordo anulare, che come sappiamo ormai per noi romani è praticamente un essere vivente, cioè un'entità senziente che ha creato una specie di città circolare intorno alla città, no? E quindi, ragionando sempre per anelli, è chiaramente che anche il grab può può funzionare molto nel darci un altro sguardo sullo spazio pubblico, e soprattutto perché attraversa zone archeologiche, periferie poco conosciute, zone invece della città molto conosciute, quindi diciamo reinnesca quel meccanismo spezzato del dialogo tra centro e periferia, direi centro e periferia est, perché il grab non arriva nella parte occidentale della città, ma questo è comprensibile anche per ragioni banalmente orografiche. E sì, sicuramente ci sono tante cose che molti romani non conoscono. Non conoscono per esempio gli attuali percorsi ciclabili all'interno del Parco dell'Aniene, non conoscono i tratti che passano in mezzo a Villa Gordiani, sulla Prenestina, non conoscono tutta la zona dell'aeroporto di Centocelle, di Viale della Serenissima. Cioè ci sono delle zone di Roma che sono conosciute praticamente solo dagli abitanti e da qualche ciclista pazzo, o anche... anche da qualcuno che durante la pandemia come me andò a vedere i quartieri che non conosceva, no? E quindi sicuramente la bicicletta mi aiutò molto in quel periodo. Tra l'altro avevo una bicicletta nella casa di mia madre al Flaminio, e quindi poi quando la prendevo non era chiaro quando e forse nemmeno se sarei mai tornato, vista insomma la mia confidenza con il mezzo. Comunque bella mostra, vi consiglio di andarla a vedere. E tornando, ho anche fatto un salto al Maxi, dove avevo già visto questa mostra, diciamo, della famiglia Alto, ma più che altro mi sono fermato nella Video Gallery, dove credo che fino al 7 marzo ancora sono in proiezione un paio di documentari bellissimi soprattutto sul, diciamo, capostipite, cioè Alvar Aalto, il rapporto con le due mogli e soprattutto Aino, la prima moglie. È molto interessante perché di questo personaggio abbiamo sempre conosciuto tutte le indiscutibili virtù, a cominciare dal talento, la capacità anche di, diciamo, di narratore di se stesso, della sua visione. Eroe di due mondi, come sappiamo, il mondo scandinavo europeo e il mondo nordamericano, però non conoscevamo così a fondo, per esempio, le sue debolezze e anche tutto quello che nel racconto che c'è stato fino adesso non emergeva, no? Quello che più o meno la filmografia recente sui grandi personaggi del Novecento fa emergere, che essendo quasi tutti uomini, alla fine molti di essi sono anche dei narcisi. E adesso forse abbiamo anche uno sguardo un pochino più educato per capire il loro percorso e mettere in discussione anche il nostro. Io credo che in ogni parola, in ogni gesto che fa un uomo nato nel Novecento, me compreso naturalmente, c'è una quota di patriarcato, e vedere anche il modo in cui una certa filmografia, una certa bibliografia anche, perdona automaticamente, no? Agli uomini di talento certi comportamenti, è qualcosa che sta forse, provo ad azzardare, forse cambiando.